Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Il conformista di Alberto Moravia. Settima puntata. Il cappello in mano, togliendosi con l'altra gli occhiali neri dal naso e riponendoli nel taschino della giubba, Marcello entrò nell'atrio della biblioteca e domandò all'usciere dove si trovassero le collezioni dei giornali. Poi si avviò senza fretta per la larga scala in cima alla quale il finestrone del pianerottolo risplendeva della luce forte di maggio. Si sentiva leggero e quasi vacante, in una sensazione di perfetto benessere fisico, di intatta vigoria giovanile, e il vestito nuovo che indossava, grigio e di taglio semplice, aggiungeva a questa sensazione quella non meno piacevole di una eleganza seria e nitida, secondo i suoi gusti. Al secondo piano, dopo aver riempito la scheda nell'ingresso, si diresse verso la sala di lettura, ad un banco dietro il quale stavano un vecchio usciere e una ragazza. Aspettò che fosse il suo turno e poi consegnò la scheda chiedendo la collezione del 1920 del principale giornale cittadino. Aspettò pazientemente appoggiato al banco, guardando davanti a sé verso la sala di lettura. Parecchie file di scrittoi, ciascuno con un lume dal paralume verde, si allineavano fino in fondo alla sala. Marcello osservò attentamente questi scrittoi, scarsamente popolati per lo più da studenti, e scelse mentalmente il suo, l'ultimo nella sala, in fondo a destra. La ragazza riapparve reggendo con le due braccia il grande fascicolo rilegato del giornale richiesto. Marcello prese il fascicolo e andò allo scrittoio. Posò il fascicolo sul piano inclinato dello scrittoio e sedette, avendo cura di tirare un poco i pantaloni sopra il ginocchio, quindi con calma aprì il fascicolo e cominciò a sfogliarne le pagine. I titoli avevano perduto l'originaria lucentezza, erano diventati di un nero quasi verde. La carta era ingiallita, le fotografie apparivano sbiadite, confuse, senza rilievo. Osservò che più i titoli erano grandi ed estesi, e più davano un senso di futilità e di assurdità. Annunzi di avvenimenti che avevano perduto importanza e significato la sera stessa del giorno in cui erano apparsi, e che adesso, clamorosi e incomprensibili, ripugnavano non soltanto alla memoria, ma anche all'immaginazione. I titoli più assurdi, come notò, erano quelli che portavano sotto la notizia un commento più o meno tendenzioso. Facevano pensare, con la loro mescolanza di vivacità suggestiva e di totale mancanza d'eco, alle vociferazioni stravaganti di un pazzo che assordano ma non toccano. Marcello paragonò il proprio sentimento di fronte a questi titoli a quello che immaginava avrebbe provato di fronte al titolo che lo riguardava, e si domandò se anche la notizia che andava cercando avrebbe destato in lui lo stesso senso di assurdità e di vuoto. Questo era dunque il passato. Però, continuando a voltare le pagine, questo fracasso ormai muto, questa furia ormai spenta, cui la materia stessa del giornale, quella carta ingiallita che presto si sarebbe sbriciolata e sarebbe caduta in polvere, prestava un carattere volgare e spregevole. Il passato era fatto di violenze, di errori, di inganni, di frivolezze, di menzogne, pensò ancora leggendo una dopo l'altra le notizie delle pagine, e queste erano le sole cose che giorno per giorno gli uomini ritenevano degne di essere pubblicate, con le quali si raccomandavano alla memoria dei posteri. La vita normale e profonda era assente da quei fogli. Ma lui stesso, mentre faceva queste riflessioni, che altro vi cercava se non la testimonianza di un delitto? Non aveva fretta di trovare la notizia che lo riguardava, sebbene sapesse con precisione la data e potesse trovarla a colpo sicuro. Ecco il 22, il 23, il 24 di ottobre del 1920. Egli si avvicinava sempre più ad ogni pagina che voltava a quello che considerava il fatto più importante della sua vita. Ma il giornale non ne preparava l'annunzio, non ne registrava i preliminari. Tra tutte quelle notizie che non lo toccavano in alcun modo, la sola che lo riguardasse sarebbe affiorata ad un tratto, senza preavviso, come affiora alla superficie, dalla profondità del mare, un pesce salato dietro un'esca. Provò a scherzare, pensando Invece di questi grandi titoli sugli avvenimenti politici avrebbero dovuto stampare «Marcello incontra per la prima volta Lino, Marcello gli chiede la rivoltella, Marcello accetta di salire sulla macchina». Ma tutto ad un tratto, lo scherzo gli morì nella mente e un turbamento improvviso gli fece mancare il respiro. Era giunto alla data che cercava. Voltò in fretta la pagina e nella cronaca nera, come si aspettava, trovò la notizia con un titolo su una colonna. «Mortale incidente». Prima di leggere si guardò intorno, quasi avesse temuto di essere osservato. Poi abbassò gli occhi sul giornale. La notizia diceva: «Ieri lo chauffeur Pasquale Seminara, abitante in via della Camilluccia numero 33, mentre puliva una rivoltella, ne faceva partire inavvertitamente alcuni colpi. Prontamente soccorso, il Seminara veniva trasportato d'urgenza all'ospedale di Santo Spirito, dove i sanitari gli riscontravano una ferita di arma da fuoco al petto, in direzione del cuore, e giudicavano il caso disperato. Infatti, in serata, nonostante le cure prodigategli, il Seminara cessava di vivere». La notizia non avrebbe potuto essere più concisa né più convenzionale, pensò subito rileggendola. Tuttavia, pur con le formule logore del giornalismo più anonimo, rivelava due fatti importanti. Il primo, che Lino era morto davvero, cosa di cui era stato sempre convinto, ma che non aveva mai avuto il coraggio di accertare. Il secondo, che questa morte era stata attribuita per evidente suggerimento del moribondo ad una casuale disgrazia. Così, egli era completamente al riparo di ogni conseguenza. Lino era morto e questa morte non avrebbe potuto mai essergli imputata. Ma non era per rassicurarsi che si era deciso finalmente a ricercare nella biblioteca la notizia del fatto avvenuto tanti anni prima. La sua inquietudine, mai del tutto sopita durante quegli anni, non aveva mai considerato le conseguenze materiali del fatto. Per vedere invece quale sentimento gli ispirasse la conferma della morte di Lino, aveva varcato quel giorno la soglia della biblioteca. Da questo sentimento, come aveva pensato, avrebbe giudicato se egli era ancora il ragazzo di un tempo, ossessionato dalla propria fatale anormalità, o l'uomo del tutto normale che aveva in seguito voluto essere ed era convinto che era. Provò un singolare sollievo, e forse più che sollievo, stupore, accorgendosi che la notizia stampata sulla carta ingiallita di 17 anni prima non destava nel suo animo alcuna eco apprezzabile. Gli era avvenuto, pensò, come a chi, dopo aver tenuto per lunghissimo tempo una fasciatura intorno a una profonda ferita, finalmente si decide a togliere le bende e scopra con meraviglia, là dove credeva di trovare almeno una cicatrice, la pelle liscia e unita, senza alcuna traccia, di alcun genere. Ricercare la notizia nel giornale era stato come togliere le bende, pensò ancora. E scoprirsi insensibile voleva dire scoprirsi guarito. Come fosse avvenuta questa guarigione, non avrebbe saputo dirlo, ma senza dubbio non era stato soltanto il tempo a produrre un tale risultato. Molto doveva anche a se stesso, alla sua consapevole volontà attraverso tutti quegli anni di uscire dalla normalità e farsi eguale agli altri. Con una specie di scrupolo, distogliendo gli occhi dal giornale e fissandoli nel vuoto, volle tuttavia pensare esplicitamente alla morte di Lino, cosa che sin allora distinto aveva sempre evitato. La notizia del giornale era scritta nel linguaggio convenzionale della cronaca e questo poteva anche essere un motivo di indifferenza e di apatia. Ma la sua rievocazione non poteva non essere viva e sensibile e come tale atta a ridestare nel suo animo gli antichi terrori, se ancora c'erano. Così, docilmente, dietro la memoria che, simile ad una guida impietosa e imparziale, lo conduceva a ritroso nel tempo, rifece il cammino di se stesso fanciullo. Il primo incontro con Lino sul viale, il suo desiderio di possedere una rivoltella, la promessa di Lino, la visita alla villa, il secondo incontro con Lino, le smanie pederastiche dell'uomo, lui che puntava alla rivoltella, l'uomo che gridava istrionicamente, le braccia aperte e inginocchiato presso il letto. «Ammazzami, Marcello, ammazzami come un cane!» Lui, che quasi ubbidendo sparava, l'uomo che cadeva contro il letto, si tirava su, restava immobile, reclinato sul fianco. Si accorse subito, esaminando parte a parte tutti questi particolari, che l'insensibilità riscontrata di fronte alla notizia del giornale si confermava e si allargava. Non soltanto, infatti, non provava alcun rimorso, ma neppure sfioravano la superficie immobile della sua coscienza i sentimenti di compassione, di rancore e di ripugnanza per Lino, che per molto tempo gli erano sembrati indivisibili da quel ricordo. Non provava nulla, insomma. E un impotente, disteso al fianco di un corpo nudo e desiderabile di donna, non era più inerte del suo animo di fronte a quel remoto avvenimento della sua vita. Fu contento di questa indifferenza, segno indubbio che tra il ragazzo che era stato e il giovane che era non correva ormai più alcun rapporto, neppure nascosto, neppure indiretto, neppure sopito. Egli era veramente un altro, pensò ancora chiudendo pian piano il fascicolo e levandosi dallo scrittoio. E sebbene la sua memoria fosse in grado di ricordare meccanicamente quanto era accaduto in quel lontano ottobre, in realtà tutta la sua persona, fin nelle fibre più segrete, l'aveva ormai dimenticato. Senza fretta andò al banco e restituì il fascicolo alla bibliotecaria. Quindi, sempre con la compostezza piena di misura e di vigore, che era il suo atteggiamento preferito, uscì dalla sala di lettura e si avviò giù per lo scalone verso l'atrio. Era vero, non poteva fare a meno di pensare, affacciandosi dalla soglia alla forte luce della strada. Era vero. La notizia e poi la rievocazione della morte di Lino non avevano destato alcuna eco nel suo animo e tuttavia non si sentiva più così sollevato come tutta prima gli era sembrato. Ricordò la sensazione che aveva provato sfogliando le pagine del vecchio giornale, come di togliere le bende da una ferita e trovarla con sorpresa perfettamente guarita. E si disse che forse, sotto la pelle intatta, l'antica infezione covava tuttora in forma di ascesso chiuso e invisibile. Questo sospetto gli era confermato non soltanto dal carattere effimero del sollievo avvertito per un momento quando aveva scoperto che la morte di Lino gli era indifferente, ma anche dalla leggera, tetra malinconia che come un diafano velo funereo si frapponeva tra i suoi sguardi e la realtà, come se il ricordo del fatto di Lino, pur dissolto dagli acidi potenti del tempo, avesse tuttora steso un'ombra inspiegabile su tutti i suoi pensieri e i suoi sentimenti. Camminando piano per le strade affollate e piene di sole, cercò di stabilire un paragone tra il se stesso di 17 anni prima e quello di adesso. Ricordò che a 13 anni era stato un ragazzo timido, un po' femminile, impressionabile, disordinato, fantastico, impetuoso, passionale. Adesso, invece, a 30, era un uomo per nulla timido, anzi perfettamente sicuro di sé, del tutto maschile nei gusti e negli atteggiamenti, calmo, ordinato fino all'eccesso, quasi privo di immaginazione, controllato, freddo. Gli pareva inoltre di rammentare che c'era stata in lui allora una ricchezza tumultuosa e oscura. Adesso invece tutto in lui era chiaro, sebbene forse un poco spento, e la povertà e rigidezza di poche idee e convinzioni avevano preso il posto di quella generosa e confusa abbondanza. Finalmente era stato incline alla confidenza ed espansivo, talvolta addirittura esuberante. Adesso era chiuso, di umore sempre uguale, senza brio se non proprio triste, silenzioso. Il tratto però più distintivo del radicale cambiamento intervenuto in quei 17 anni era la scomparsa di una specie di eccesso di vitalità costituito dal ribollire di istinti insoliti e forse anche anormali, in luogo del quale, adesso, era subentrata, come pareva, una certa mortificata e grigia normalità. Soltanto il caso, pensò ancora, aveva impedito allora che egli soggiacesse alle voglie di Lino e certamente al suo contegno con l'autista, pieno di civetteria e di femminile dispotismo, aveva contribuito, oltre ad un'infantile venalità, anche un'inclinazione torbida e inconsapevole dei sensi. Ma adesso egli era veramente un uomo come tanti altri. Si fermò davanti allo specchio di un negozio e si guardò a lungo, osservandosi con un distacco obiettivo e privo di compiacimento. Sì, era proprio un uomo come tanti altri, con il suo vestito grigio, la sua cravatta sobria, la sua figura alta e ben proporzionata, la sua faccia bruna e rotonda, i suoi capelli ben pettinati, i suoi occhiali neri. All'università, come ricordò, aveva ad un tratto scoperto con una specie di gioia che c'erano almeno 1000 giovani della sua età che si vestivano, parlavano, pensavano, si comportavano come lui. Adesso probabilmente quella cifra andava moltiplicata per 1 milione. Era un uomo normale, pensò con dispettosa e acre soddisfazione. Questo era fuori dubbio, sebbene non potesse dire come fosse avvenuto. Ricordò improvvisamente che aveva finito le sigarette ed entrò in una tabaccheria nella galleria di Piazza Colonna. Andò al banco e chiese le sigarette preferite. In quel momento stesso altre 3 persone chiedevano le stesse sigarette e il tabaccaio rapidamente disseminò sul marmo del banco, davanti le 4 mani che tendevano il denaro, 4 pacchetti identici che con identico gesto le 4 mani ritirarono. Marcello notò che prendeva il pacchetto. Lo palpava per vedere se fosse abbastanza morbido e quindi ne lacerava l'involucro nella stessa maniera degli altri 3. Notò pure che 2 dei 3 riponevano come lui il pacchetto in una piccola tasca interna della giubba. Finalmente uno dei 3, appena uscito dalla tabaccheria, si fermava ad accendere la sigaretta con un accendino d'argento, in tutto simile al suo. Queste osservazioni destavano nel suo animo un compiacimento quasi voluttuoso. Sì, era uguale agli altri, uguale a tutti, a coloro che compravano le sigarette della stessa marca e con gli stessi gesti suoi, a coloro pure che al passaggio di una donna vestita di rosso si voltavano a sbirciare e lui con loro il fremito delle solide natiche sotto il tessuto sottile del vestito, sebbene come per quest'ultimo gesto la somiglianza talvolta fosse in lui più voluta per imitazione che originata da analoga conformità di inclinazioni. Un giornalaio basso e deforme gli venne incontro, un fascio di giornali sul braccio, sventolandone una copia e vociando forte con il viso congestionato dallo sforzo, una frase incomprensibile in cui tuttavia erano riconoscibili le parole «Vittoria» e «Spagna». Marcello comprò il giornale e lesse con attenzione il titolo che copriva tutta la testata. Ancora una volta, nella guerra di Spagna, i franchisti avevano riportato una vittoria. Si rese conto che leggeva questa notizia con una soddisfazione indubbia, la quale, come pensò, era un indizio di più della sua piena, assoluta normalità. Egli aveva visto nascere la guerra dal primo titolo ipocrita che avviene in Spagna. E poi questa guerra si era allargata, ingigantita, era diventata una contesa non soltanto di armi, ma anche di idee. E lui via via si era accorto di parteciparvi con un sentimento singolare, del tutto separato da ogni considerazione politica e morale, sebbene tali considerazioni gli si affacciassero spesso alla mente, molto simile a quello di uno sportivo entusiasta che parteggi per una squadra di pallone contro un'altra. Fin da principio aveva desiderato che Franco vincesse, senza accanimento, ma con un sentimento tenace e profondo, quasi che quella vittoria avesse dovuto portare una conferma della bontà e giustezza dei suoi gusti e delle sue idee, non soltanto nel campo della politica, ma anche in tutti gli altri. Forse aveva anche desiderato e desiderava tuttora la vittoria di Franco per amore di simmetria, come qualcuno che, arredando la propria casa, si preoccupi di collocarvi mobili tutti dello stesso stile. Questa simmetria gli pareva di leggerla nei fatti degli ultimi anni, in progressivo accrescimento di chiarezza e di importanza. Prima l'avvento del fascismo in Italia, poi in Germania, poi la guerra di Etiopia, poi quella di Spagna. Questo progresso gli piaceva. Non sapeva perché. Forse perché era facile ravvisarvi una logica più che umana e saperla ravvisare dava un senso di sicurezza e di infallibilità. D'altra parte, come pensò ripiegando il giornale e mettendolo in tasca, non si poteva dire che egli si fosse convinto della bontà della causa di Franco per ragioni politiche o di propaganda. Questa convinzione gli era venuta dal nulla, com'è da credersi che venga alla gente ignorante e comune, dall'aria, insomma, come si intende quando si dice che un'idea è nell'aria. Egli parteggiava per Franco come parteggiavano per Franco altre innumerevoli persone del tutto comuni che poco o nulla sapevano della Spagna, che leggevano appena le testate dei giornali, che non erano colte. Per simpatia, insomma, dando a questa parola un senso tutto irriflesso, alogico, irrazionale. Una simpatia che si poteva dire soltanto per metafora che veniva dall'aria, ma in aria. Ci sono il polline dei fiori, i fumi delle case, la polvere, la luce, non le idee. Questa simpatia, dunque, veniva da zone più profonde e dimostrava una volta di più che la sua normalità non era né superficiale, né abborracciata razionalmente e volontariamente con ragioni e motivi opinabili, ma legata ad una condizione istintiva e quasi fisiologica, ad una fede, insomma, che egli condivideva con altri milioni di persone. Egli faceva tutta una cosa sola con la società e il popolo con cui si trovava a vivere. Non era un solitario, un anormale, un pazzo. Era uno di loro, un fratello, un cittadino, un camerata. E questo, dopo aver tanto temuto che l'uccisione di Lino potesse separarlo dal resto dell'umanità, era in alto grado consolante. Franco, o un altro, del resto, pensò ancora. Poco importava, purché ci fosse un legame, un ponte, un segno di collegamento e di comunione. Ma il fatto che fosse Franco, e non un altro, dimostrava che oltre ad essere un indizio di comunione e di compagnia, la sua partecipazione sentimentale alla guerra di Spagna era anche una cosa vera e giusta. Che altro poteva essere infatti la verità se non qualche cosa a tutti evidente, da tutti creduta e ritenuta inoppugnabile? Così la catena era ininterrotta, con tutti gli anelli ben saldati dalla sua simpatia, anteriore ad ogni riflessione e alla consapevolezza che questa simpatia era condivisa da altri milioni di persone nella stessa maniera. Da questa consapevolezza alla convinzione di essere nel vero, dalla convinzione di essere nel vero all'azione, perché, come pensò ancora, il possesso della verità non soltanto permetteva l'azione, ma anche l'imponeva. Come una conferma da fornire a se stesso e agli altri della propria normalità, che tale non era se non veniva appunto approfondita, ribadita e dimostrata continuamente. Tommaso Ragno ha letto Il conformista di Alberto Moravia. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Jacopo De Bertoldi, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Per scaricarlo, raiplayradio.it.